Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Abbiamo tutti i nostri momenti di debolezza. Per fortuna siamo ancora capaci di piangere. Il pianto, spesse volte, è una salvezza. Ci sono circostanze in cui moriremmo se non piangessimo. José Saramago. Di gioia, di commozione, di felicità, di dolore, di tristezza, di orgoglio, da coccodrillo o da cipolla. Oggi, intanto buongiorno da Nicoletta, oggi, cari amici, parliamo di lacrime. Hanno diverse funzioni e diversi significati. Di loro non possiamo fare a meno, anzi, ricerche dicono, e l'esperienza conferma, che a lasciarli andare liberamente, senza reticenze né pudori, fa bene. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda di neuroscienze. Buongiorno professor Perna, bentornato. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora professore, noi spesso le tratteniamo perché commuoversi, farsi vedere con la lacrimuccia davanti agli altri, insomma ci espone un po', spesso è considerato anche un segno di fragilità. Invece ricerche recenti ci dicono che le lacrime sono un toccasana per il nostro benessere fisico e psicologico. Più vero Nicoletta, questo perché ovviamente l'esprimere le proprie emozioni evita che queste in qualche maniera si comprimano all'interno di noi, della nostra testa, del nostro corpo e quindi possono fare dei danni. Quindi la capacità di manifestare esternamente con le lacrime vuol dire sfogarsi. L'altra cosa importante è questa, poi credo che ne parlerete ampiamente, ma le lacrime hanno una composizione diversa se sono lacrime di tipo emozionale. Questo perché si dice che all'interno del liquido delle lacrime ci siano le tossine, quindi con un bel pianto uno libera una serie di tossine, una serie di fattori che poi fanno star bene. Pensiamo quando siamo sollevati dopo un grande pianto, no? Questo è un fattore psicologico, ma potrebbe essere anche fisiologico, quasi chimico. Allora, professor Perna, quindi le lacrime non sono solo la cartina tornasole delle nostre emozioni, si può piangere anche di qualcosa di meno poetico, affettare una cipolla per un granello di polvere che è entrato nell'occhio per uno sbadiglio, ma come lei già ci anticipava, le lacrime non mentono e ci sono delle differenze nella composizione tra le lacrime emozionali e quelle indotte da stimoli non emotivi. Ce lo facciamo confermare dal professor Maurizio Rolando, che è associato di oftalmologia e direttore del Centro per la Ricerca Clinica Sperimentale delle Malattie della Superficie Oculare all'Università di Genova. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, le lacrime non mentono, la loro composizione ci fa capire se sono lacrime del cuore o lacrime da cipollo, da coccodrillo, è così? In realtà così, la composizione delle lacrime ha una base che rimane costante, naturalmente c'è dell'acqua e cose, ma varia in modo incredibile a seconda delle condizioni sia ambientali che sembrerebbe di umore che abbiamo. C'è stato uno studio diversi anni fa fatto all'Università di Minnesota che ha mostrato come i pazienti che avevano il pianto emotivo, diciamo, sì, avevano concentrazioni maggiori nelle lacrime di un particolare elettrolita che si chiama il manganese, mm-hmm, che è una sostanza che avrebbe una attività depressiva, qualcuno mi corregga se sbaglio, ma avrebbe un'attività depressiva a livello del cervello e che quindi le lacrime emotive in qualche modo scaricherebbero, allontanerebbero dal nostro organismo e quindi dando un senso di sollievo. Quindi quello che è stato trovato è che le lacrime dell'emozione contengono, dell'emozione diciamo della tristezza, della sofferenza psicologica, conterrebbero maggiore quantità di questa sostanza un po' depressiva. Mentre le lacrime... Ma perché non voleva sposarmi? Che cos'ho che non va? Niente. Sono difficile. Sei stimolante. Sono troppo strutturata e chiusa in una torre d'avorio. Però simpatica. No, l'ho fatto scappare. Presto avrò 40 anni. Quando? Tra poco. Tra 8 anni. Ma non è tanto. Non lo sai che una 40 anni è in un vicolo cieco? Naturalmente per voi è diverso. Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni. Ma non ce la faceva a tenerli in braccio? Allora, bellissimo, una scena da Harry ti presento Sally, da cui noi spesso attingiamo. Professore Perna, voi perché spesso prepariamo il soffritto, voi perché siamo decisamente empatiche, noi donne piangiamo di più. E anche in questo caso, come se l'esperienza non bastasse, arriva la conferma della scienza. C'è stato uno studio dell'Associazione Tedesca degli Oftalmologi che ha misurato proprio la quantità di lacrime versate. Bene, il gentil sesso piange in media 64 volte l'anno, circa il quadruplo rispetto al massimo di 17 volte dell'uomo. Lo scarto inizierebbe dall'adolescenza. Intorno ai 13 anni noi donne iniziamo a prendere il fazzoletto in mano e non solo piangiamo di più, ma riusciamo anche a piangere più a lungo e addirittura con i singhiozzi. Ma professor Perna, attenzione, perché secondo un'altra ricerca le donne che hanno la lacrima facile rischiano di spegnere le attenzioni del proprio partner. Professore, anche le lacrime, insomma, remano contro. Beh, l'eccesso più che altro. Ovviamente una giusta dose di pianti vuol dire anche capacità di comunicare con gli altri. È chiaro che se il pianto diventa una regola, poi perde il proprio effetto, no? Quindi questo è un po' come al lupo, se noi esageriamo col chiamare lupo, poi quando veramente abbiamo bisogno, poi la persona all'esterno non è presente. Quindi l'eccesso del pianto fa due effetti. Uno è quello di minimizzare il valore del pianto, la seconda cosa è quella comunque di, tra virgolette, stufare il partner. Ricordiamoci che purtroppo uomini e donne sono molto diverse nel ragionamento sulla comunicazione, per l'uomo è la situazione è molto più concreta, insomma a noi piace aggiustare le lampadine, siamo molto concreti nelle soluzioni, per la donna la comunicazione è molto una modalità di sfogarsi, no? Come spesso il pianto, quindi spesso il grande conflitto nasce perché la donna piange, l'uomo cerca di dare delle soluzioni invece che ascoltare il pianto e, come dire, accogliere il pianto come un momento di sfogo, lo vede come il segnale che c'è qualcosa da risolvere. Questo ovviamente porta a un conflitto, perché le richieste da una parte non sono quelle che poi vengono date dall'altra. Quindi è verissimo che il pianto è un'arma a doppio taglio che ha un significato molto variabile. Insomma, bisogna versare le lacrime giuste. Professor Perna, grazie per essere stato con noi. Arrivederci a tutti e buona giornata. Noi continuiamo a parlare di lacrime vere, di lacrime artificiali, della funzione che hanno le nostre lacrime, perché sono molto importanti per il benessere del nostro occhio. Detergono e idratano. E per assolvere queste due funzioni devono essere, professor Rolando, di buona qualità e nella giusta quantità. Esattamente. Naturalmente le lacrime portano anche tutta una serie di sostanze nutrienti e quindi è importante che ne arrivino a sufficienza, che rimangano il tempo giusto sulla superficie dell'occhio e poi se ne vadano, perché si caricano di sostanze tossiche, perché servono, come dicevi correttamente, per lavare via. E quindi è importantissimo che vi sia una produzione, le lacrime si spargano come si spargono regolarmente ad ogni ammiccamento sulla superficie dell'occhio, ci consentono di vedere bene, perché la visione nostra avviene grazie al fatto che le lacrime sono perfettamente lisce sulla superficie dell'occhio. La superficie dell'occhio in realtà è ruvida e ha una qualità ottica molto modesta. Se non ci fossero le lacrime avremmo una visione abbastanza torbida e confusa. La lacrima uniforma questa superficie, la rende specchiante, vediamo che gli occhi brillano proprio perché c'è uno strato di lipidi a davanti della nostra lacrima che ci consente di vedere nitido. Questa struttura, questa lacrima che ha una sua architettura sulla superficie dell'occhio, viene distrutta e ricostruita ogni volta che ammicchiamo. In questo modo abbiamo sulla superficie dell'occhio sempre una lacrima efficiente che nutre, mantiene, regola lo sviluppo delle cellule e soprattutto mantiene fresco e idratato il nostro occhio, quindi una buona visione ma anche un buon conforto. Gli occhi che piangono di più sono anche quelli che vedono meglio. Victor Hugo. E le nostre nonne dicevano infatti che piangere faceva venire gli occhi belli, ma spesso dopo un pianto gli occhi sono rossi. Ed è proprio di rossore che voglio parlare con lei, professore, ma anche con i nostri ascoltatori che possono chiamarci per problemi di rossore, di lacrime vere, di lacrime artificiali all'800 24 00 24. E professor Rolando, in questa stagione è facile avere gli occhi rossi, molto spesso a questo sintomo non se ne accompagnano altri, come il fastidio alla luce, il prurito che a volte si trasforma in bruciore. Ma io, se lei è d'accordo, andrei per ordine. Iniziamo dal rossore. L'occhio rosso è un occhio sofferente, ci dice qualcosa? Beh, l'occhio rosso è un sistema di comunicazione che ha la nostra superficie dell'occhio per dirci che la situazione è critica, ossia abbiamo una vasodilatazione. La vasodilatazione è una risposta della superficie dell'occhio che dice bisogna fare arrivare più sostanze dal sistema circolatorio. Sì. Il sistema circolatorio diventa immediatamente più permeabile e porta le sostanze di difesa alla superficie dell'occhio. Però è un segnale da non trascurare, che ci può voler dire, ad esempio, che abbiamo preso troppo vento o che siamo stati al mare e abbiamo la polvere ci ha irritato. È un segnale che il nostro sistema nella superficie dell'occhio è in crisi e che quindi dobbiamo prendere un qualche provvedimento. D'altronde noi non ce ne rendiamo conto, ma i nostri occhi combattono ogni giorno delle vere e proprie battaglie, li sforziamo durante la lettura o quando lavoriamo al terminale, li stropicciamo con le mani spesso non troppo pulite, li teniamo a contatto con sostanze che possono irritarli, penso ai cosmetici, ed è per questo che molti oculisti consigliano una sana igiene dell'occhio. Ce la insegna anche a noi, professor Rolando, con particolare riferimento alla stagione? Beh, certamente. Allora, l'igiene dell'occhio, cominciamo dalle palpebre. Sul bordo delle palpebre molto spesso si depositano dei detriti o delle sostanze lipidiche provenienti dalla pelle o da alcune ghiandole che abbiamo sulla superficie. Quindi è molto importante che noi ogni tanto nella nostra giornata o anche nella nostra settimana facciamo degli impacchi di acqua calda. È una cosa semplice. Basta l'acqua del rubinetto, che deve essere calda, non tiepida. La si applica ad occhi chiusi con un cotone, una garza per 3-4 minuti sulla superficie dell'occhio e dopodiché si massaggia leggermente, senza farsi male naturalmente, la superficie del bordo palpebrale, sempre ad occhi chiusi. Sì. Dopodiché ci si risciacqua e si nota nel tempo proprio che la palpebra diventa più morbida, ma soprattutto si ha una sensazione di benessere. E questa è la prima cosa che stimola la rimozione, l'attivazione dei nostri sistemi di difesa della superficie. Quindi molto semplice, un impacchino con l'acqua calda. Sì, di vecchia tradizione. Ma mi piace molto. È estremamente efficace, soprattutto per chi ha il bordo palpebrale spesso molto rosso, chi al mattino si sveglia che sente un po' gli occhi grattare. Sì. Questo è un sistema buono per prevenire i segni. La seconda cosa è possono esserci delle condizioni in cui abbiamo stressato un po' la ghiandola lacrimale, che non ce la fa tenere il passo. Se io sono sempre tutto il giorno al vento, oppure lavoro al computer e non ammicco mai, l'occhio tende ad asciugarsi e la nostra ghiandola nel corso della giornata tende a produrre sempre di più, fino a un certo limite, perché poi la ghiandola ha paura di esaurirsi e quindi comincia a secernere di meno. E questo comporta il fatto che noi abbiamo un ricambio di lacrime minore nel corso della giornata e quindi un accumulo sulla superficie dell'occhio di sostanze irritanti. In questo caso può venire utile l'utilizzazione garbata, diciamo, non eccessiva, di quello che noi chiamiamo un sostituto lacrimale, una lacrima artificiale, che ci consente di tenere l'occhio pulito. Di cui parleremo, perché bisogna anche saperle scegliere. E a proposito di igiene oculare, c'è una cosa che noi donne spesso dimentichiamo di fare o facciamo in modo molto sommario: struccarci gli occhi. Ed è invece un gesto estremamente importante. Ne parliamo oggi con la nostra dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, bentornata. Grazie, buongiorno a lei e a tutti. Alla sera magari siamo stanche oppure già il trucco se n'è un po' andato e dimentichiamo di struccarci o lo facciamo malamente. Malissimo. È un classico però. Come ci lavano i denti, bisogna struccarsi e lavarsi il viso. Ci si mettono 30 secondi, per cui non sono quei 30 secondi che rubano tempo al sonno, anzi regalano un sonno migliore perché da puliti si dorme anche meglio. Come facciamo a scegliere il prodotto giusto che ci deterga con delicatezza ma sia efficace? Ecco, io in genere consiglio delle acque struccanti, detergenti a pH rigorosamente isolacrinale, perché così non bruciano gli occhi, e servono proprio per togliere il trucco, il maquillage, e a seguire una detersione con mousse o sapone liquido o sapone. Per tutto è il viso, certo. È opportuno evitare i latti detergenti troppo vicino all'occhio e gli oli troppo vicino all'occhio, ma anche le creme troppo untuose, perché questi oli possono andare a irritare le ghiandole lacrimali e poi possono dare irritazioni, gonfiori alla mattina. Insomma, l'effetto rospo, dottoressa Serri, il famoso effetto rospo. L'effetto rosso, esatto. Infatti io consiglio di pulire molto bene, e è particolarmente utile anche l'utilizzo del pannettino, quello fatto apposta di microfibra molto delicato per il viso e lo strucco, perché permette proprio di pulire molto bene usando meno detergente in maniera delicata. L'unica cosa per la quale bisognerebbe usare l'olio è il mascara waterproof, sì. Ma come dermatologa non mi sento di consigliare troppo frequentemente l'utilizzo del mascara waterproof, ma solo in occasioni speciali, che so, un matrimonio, una festa, un funerale, piuttosto che una nuotata con un fidanzato, e bisogna per forza mettere avere queste ciglia da sirena. Dottoressa Serri, io la ringrazio. Ricordo che la dottoressa Serri è una degli esperti del nostro Daily Lab. Noi la salutiamo e la ringraziamo per i consigli preziosi che ci regala ogni mese. Grazie, dottoressa Serri. A presto. A prestissimo. Noi continuiamo a parlare di lacrime, di quanto siano preziose per i nostri occhi, di colliri, parleremo tra poco, spesso li usiamo, ce le autoprescriviamo, li scegliamo così un po' così senza avere nessuna informazione al riguardo, parleremo anche di lacrime artificiali, quindi soprattutto se in questa stagione, vuoi perché stiamo spesso fuori o non ci proteggiamo adeguatamente gli occhi, sentiamo gli occhi rossi, sentiamo gli occhi che bruciano o facciamo uso di lenti a contatto, questo è il momento di intervenire all'800 24 00 24, perché il professor Rolando rimane con noi, ci racconterà tutto sulle lacrime, quelle che fanno bene al cuore e ai nostri occhi, con tanti consigli come i consigli che ogni giorno potete trovare sul nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere. Andate sul sito di Radio 24, cliccate, c'è la mia foto con delle meline, cliccate lì e voilà, i consigli dei nostri esperti tutti per voi. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così. E noi riprendiamo il passo con questa bella canzone, Gocce di memoria, per parlare di gocce che sono essenziali per il benessere del nostro occhio, e ne parliamo con il professor Rolando che è in linea con noi. Parliamo di lacrime, a volte ne abbiamo sembra di averne troppe, a volte invece il nostro occhio ci manda dei messaggi come se fosse in riserva di lacrime, e per calmare alcuni segnali che il nostro occhio ci manda, tra cui il rossore, noi spesso facciamo ricorso al collirio. Chi di noi, partendo per le vacanze, non mette, no, una boccettina di collirio in valigia? Professor Rolando, è una buona idea? Beh, può essere una buona idea, perché delle volte un supplemento, diciamo, al meccanismo fisiologico della produzione delle lacrime può essere utile. Bisogna stare attenti a quello che si usa e soprattutto alla frequenza con cui lo si usa. Esistono dei colliri cosiddetti vasocostrittori, che sono molto efficienti, nel senso mettiamo una goccia e l'occhio diventa subito bianco. Sì. Questo va benissimo, a meno che non lo usiamo tutti i giorni e magari due volte al giorno, perché in questo caso questo collirio, che dà un senso di freschezza immediato, in realtà può produrre dei danni. Sono vasocostrittori e quindi modificano la risposta dei tessuti della superficie dell'occhio. Quindi non vanno usati tutti i giorni, esatto. Un po' come succede con gli spray nasali, con i decongestionanti nasali, no? Ci sono persone che le usano quotidianamente per respirare. E dopo un po' non lo sentono più, invece di usarlo una volta devono usarlo due oppure tre, perché questi non curano un problema, lo correggono apparentemente per il momento. Ora, se la nostra superficie dell'occhio è in grado di riadattarsi, ossia rispondere in modo corretto, questi aiutano a superare il momento di difficoltà e poi andiamo bene, non c'è più problema. Se invece queste erano l'espressione, ad esempio, di una mancanza reale di lacrime, il mettere il vasocostrittore diciamo aiuta lì per lì, ma non corregge il problema di base, che resterà e quindi tende a riproporsi, costringendoci a usare un collirio purtroppo non corretto sempre più spesso, e questo non risolve il problema, anzi talvolta lo aggrava. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Temporin, perché vorrei chiedere, buongiorno intanto dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla. Anche il dottor Temporin è un esperto del nostro Daily Lab, ma dottor Temporin, la metto un attimo in attesa, perché con lei vogliamo parlare dei rimedi naturali, delle erbe che aiutano ai nostri occhi a stare bene. Vorrei dare la linea ai nostri ascoltatori che ci stanno aspettando all'800 24 00 24. Mario da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lacrime? Per la trasmissione. Lacrime, lacrimucce, lacrimine? Ecco, praticamente io 4-5 anni fa ho subito un intervento al laser agli occhi e di lì in avanti ogni mattina mi sveglio con gli occhi secchissimi. Inizialmente ho messo collirio 1-2 volte al giorno, però alla fine non si può andare avanti così. Volevo capire, c'è qualche cosa, c'è rimedio, oppure l'operazione laser comporta questo? Può essere un effetto collaterale. Professor Rolando? Esiste sì. Un rischio di riduzione della secrezione lacrimale dopo gli interventi al laser, perché per la correzione della miopia o dell'ipermetropia, perché durante questo intervento si fa una sezione di alcuni nervi, dei nervi più superficiali dell'occhio. E la secrezione lacrimale è una risposta riflessa, ossia noi quando dormiamo non bagniamo il cuscino, sì. In realtà lacrimiamo o produciamo lacrime perché c'è una ventilazione, perché cambia il pH dell'ambiente in cui andiamo, perché lo stesso ammiccamento produce uno stimolo. Se io ho tolto i recettori per quello stimolo, chiaramente ho una minore produzione di lacrime, quindi questa è una complicazione possibile, però ci sono sempre le lacrime artificiali, bisogna scegliere quella giusta, tra poco ne parleremo, professor Rolando, ma volevo dare al dottor Temporin il tempo di raccontarci che cosa possiamo trovare nel nostro armadietto verde. Allora, nel nostro armadietto verde noi potremmo trovare una pianta molto utile per i nostri problemini agli occhi, che è l'Eufrasia, l'Eufrasia officinalis, la quale è una pianta che aiuta a lenire le irritazioni degli occhi, ha un effetto decongestionante, per cui va molto bene, soprattutto in estate, utilizzata come collirio per se c'è un eccesso di esposizione solare, se quindi l'occhio risulta irritato. Ovviamente non ha effetti vasocostrittivi, quindi non crea quegli effetti a cui faceva riferimento il professor Rolando. Esattamente, e può essere utile la pianta intera se si vuole fare proprio un infuso, poi da applicare con delle garzette di cotone sterile esternamente, in quanto ha un effetto anche decongestionante della zona palpebrale e perioculare. Infatti il professor Rolando ci ha suggerito, almeno una volta alla settimana, di fare degli impacchi con garze o cotone con acqua calda. Professor Rolando, quindi possiamo utilizzare anche questo infuso di eufrasia, alternandolo, perché anche la varietà dà piacevolezza. Questo sicuramente. L'eufrasia ha questa attività, diciamo, largamente antinfiammatoria, e quindi ha una sua utilità nel togliere giusto la congestione che possiamo avere alla fine della serata o perché siamo andati in barca tutto il giorno. Si trovano proprio dei colliri a base di eufrasia, dottor Temporin? In commercio sono specifici, sono ovviamente, ce ne sono anche di monouso, quindi anche molto pratici se si vogliono portare in giro, per cui possono essere utilizzati tranquillamente per qualsiasi età senza nessun problema. Quindi possiamo utilizzarli anche nei bambini? Assolutamente. Prima di salutarci, un consiglio da proprio quelli pratici da Daily Lab, dottor Temporin, estate? Allora, è estate e visto che parliamo di occhi e vista anche la stagione, in questo momento stanno arrivando i mirtilli, soprattutto il mirtillo nero, il quale ha delle proprietà anche, possiamo dire, terapeutiche per l'occhio, perché aumenta la rodopsina, quindi aumenta quella capacità di migliorare la visione notturna, ha un effetto capillaro protettivo grazie agli antacianosidi, ed essendo ovviamente la stagione giusta, consiglio molti, molti, molti mirtilli. Anche per chi ha problemi comunque di sovrappeso o problemi legati alla glicemia, in quanto è un frutto, una bacca ben tollerata da tutti e che non dà nessun tipo di problema. Grazie dottor Temporin, buonissima giornata. Noi andiamo a Roma, c'è Rossana, buongiorno. Buongiorno a voi, vi ringrazio per avermi richiamato, perché ho il mio piccolo problema e non so se è diciamo risolvibile. Io ho avuto praticamente l'operazione di cataratta e questo non sarebbe niente, poi è caduto pure il corpo vitreo e va bene, ma in quanto alle lacrime purtroppo ho un disturbo che subito dopo l'operazione ho avuto una lacrimazione intensissima. Sì. E da quel momento io ho praticamente i dotti oculari occlusi. Leggermente chiusi, sì. E quindi la lacrima non riesce a uscire. Mi ha detto che questi dotti, con l'età purtroppo, si ovalizzano, per cui ogni tanto bisogna sturarli oppure mettere un piccolo stent. La cosa mi mette un po' paura di questo stent che si mette per cercare di raddrizzare l'ovalizzazione. Io volevo sapere dai vostri esperti se c'è qualche cosa di diverso da fare oppure mi devo tenere questi occhi diciamo un po', perché il problema è che senza lacrime, senza, per cui ho questi occhi leggermente cisposi che non mi piacciono per niente. Rossana, chiediamo al professor Rolando se ci può aiutare e così introduciamo un po' bene il tema anche delle lacrime e quando è il caso di utilizzare le lacrime artificiali. Ma Rossana ha un problema che le è derivato da un intervento. Che cosa può fare? Questo sembra essere un problema opposto alla carenza di lacrime, ma è una aumentata permanenza di lacrime, quindi le lacrime in eccesso possono essere un disturbo. In effetti le opzioni suggerite dal collega sono corrette, quindi o si fanno questi sondaggi del puntino lacrimale in modo da allargarlo regolarmente di volta in volta, e questo dura purtroppo per un certo tempo ma non per sempre, oppure si può provare a mettere questo stent che non è pericoloso, signora, quindi io penso che lo possa mettere. Sì, però sa, l'idea di tenersi questo un tubo dentro non è piacevole. Non è che certo il tubino funziona sempre, si ottura anche lui. Va tenuto per un certo periodo di tempo, quindi stiamo parlando anche di qualche mese. E se la cicatrizzazione, la formazione di questa cicatrice che ha modificato la pervietà dello scarico delle lacrime è ancora abbastanza elastica, diciamo il tubino funziona, ma la garanzia 100% di successo dell'applicazione del tubino purtroppo non ce l'abbiamo. Certo che queste lacrime ci fanno abbastanza tribolare, come si dice. Certo. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Mi raccomando, se portate delle lenti a contatto, mi state scrivendo in molti. Due ascoltatori mi scrivono addirittura: io le lenti a contatto dimentico di toglierle, poi ho gli occhi rossi. Chiamateci, che così il professor Rolando vi sgrida. Abbiate il coraggio. 800 24 00 24. Mi spiega bene la differenza tra i colliri e le lacrime artificiali? Abbiamo detto che il collirio non va usato tutti i giorni, anzi bisogna fare molta attenzione. Le lacrime artificiali invece quando posso usarle? Quando mi sento l'occhio rosso, quando sento l'occhio che prude e secco, che devo fare? Allora, il sintomo tipico della mancanza di lacrime è un senso di bruciore, oppure una sensazione proprio di ruvidezza della superficie dell'occhio. Questi sono i due tipici sintomi. Questi richiedono l'utilizzazione di lacrime artificiali. Ora, se il problema è un problema sporadico, per cui noi riconosciamo facilmente la causa, ho fatto questo e è successo che mi bruciano gli occhi, ebbene possiamo scegliere noi la lacrima artificiale. Esistono lacrime artificiali di differente densità, quindi sono più viscose, meno viscose, alcune addirittura hanno, come abbiamo visto, l'eufrasia o altri preparati che hanno attività antinfiammatoria. Ma sostanzialmente, se è un problema sporadico, a noi serve una lacrima artificiale che lavi. Sì. Quindi sarà una lacrima artificiale non particolarmente densa. Sì, non densa. Non densa. Se io devo dare un suggerimento a cui tengo molto, certo, usiamo lacrime artificiali senza conservanti. Mm. Perché se abbiamo bisogno della lacrima artificiale vuol dire che non abbiamo una buona produzione di lacrime, il che vuol dire che non abbiamo un buon ricambio di lacrime sulla superficie dell'occhio. Se io metto una lacrima artificiale con conservante, l'acqua evaporerà, il conservante resta. E io alla fine della settimana o del mese avrò fatto degli impacchi di conservante sul mio occhio. Ecco, anche no, come si dice, no? Meglio evitare. Esatto. Quindi è molto più semplice evitare e soprattutto perché questo poi consente all'occhio di recuperare, perché se io metto una lacrima artificiale da una parte e poi do una cosa tossica dall'altra, è chiaro che le mie possibilità di stare finalmente meglio si riducono. La seconda cosa è che la lacrima artificiale va messa nel modo giusto. Bravo! Cioè, non, teoricamente, adesso sembra strano, ma chi ha disturbi di lacrimazione lo sa perfettamente, teoricamente andrebbe messa prima di avere il fastidio, non è possibile, perché la lacrima artificiale serve perché il fastidio non venga, più che per il fastidio se ne vada, serve anche per allontanare il bruciore. Non è terapeutica ma preventiva. Ma di solito è preventiva, ecco. Perché una lacrima non è un medicamento. Quindi se io lavoro al computer e alle 4 del pomeriggio mi bruciano gli occhi, ebbene la lacrima artificiale sarà meglio che io la metta alle 3:30. È chiaro, se sono andato di nuovo in barca, ho preso il vento e il sole, è chiaro che me la metterò quando ho fastidio. Però se è un disturbo frequente, cerchiamo di anticipare, perché quando io sento il disturbo, la superficie dell'occhio ha già messo in moto tutta una serie di meccanismi, esatto, ecco, che noi possiamo evitare anticipando e quindi mettendo questa lacrima. Quello che dobbiamo fare è cercare di anticipare il fastidio il più possibile. Andiamo da Rosi, che ci chiama da Pescara, poi Andrea da Bologna. Buongiorno Rosi. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamate. Allora, il problema l'ha quasi risolto, professore. Volevo chiedere un'ultima cosa. Essendo in una fase premenopausa, sì, io le lacrime artificiali, l'unica cosa che non ho fatto, non ho guardato se ci sono i conservanti. Lo farò subito questa sera. Li uso tutte le sere per lavare gli occhi dopo che ho fatto la levata del trucco. Sì. Bene. Però la mattina quest'occhio è sempre secco. Prima non lo avevo. Ora, io, considerate l'età, ho pensato che fosse un problema di menopausa. Se io, come ha detto lui, la uso già a livello preventivo questa lacrima. Sì. Come mai la mattina l'occhio è così secco e prima non riesco ad aprirlo, bisogna subito di mettere di nuovo la lacrima? Che non è viscida ma è piuttosto liquida come aveva. Quindi professore, Rosi fa tutte le cose per bene, ma al mattino ha l'occhio secco. Per dare allora tempo anche ad Andrea di intervenire, che cosa può suggerire a Rosi? Io darei una lacrima artificiale più densa, per la notte e faccia l'impacco di acqua calda prima di andare a dormire. Durante la notte non vengono prodotte lacrime, quindi lei va a dormire con la lubrificazione che ha all'ultimo ammiccamento prima di chiudere gli occhi. Quindi occhi e dense, lacrime dense se al mattino l'occhio è secco. Abbiamo imparato un'altra cosa, andiamo da Andrea che ci chiama da Bologna. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Andrea. Io volevo chiedere una cosa. Io porto le lenti a contatto. Sì. E le porto sporadicamente, sempre, quasi sempre solo nel fine settimana. Mi capita di tenerle per 12, 13, 14 ore durante il giorno, oppure se le metto la sera mi capita anche di andarci a letto e dormirci. Ah. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Le lacrime artificiali le devo mettere prima di mettere la lente o posso metterle anche dopo? Grazie, professor Rolando. Allora, bel delinquente che è. Si allora, dorme senta. Addirittura con le lenti a contatto, mannaggia Andrea. Allora, teoricamente il nostro organismo è in grado di resistere, come lei è una testimonianza, di cui lei è una testimonianza, agli insulti più svariati. Però le lenti a contatto, se non specificamente indicato, ossia ci sono dei tipi di lenti a contatto che si possono tenere anche durante la notte, anche se io non lo raccomando, però sono costruite apposta. Le lenti a contatto, se si può, si tolgono, togliere per dormire, perché durante la notte non c'è produzione di lacrime, non vengono lavate, c'è un maggiore rischio di infezione. E per quanto riguarda la lacrima, prima o dopo? La lacrima, direi, con la lente a contatto su va bene, prima aiuta l'occhio ad accettare la lente a contatto, ma ogni tanto è bene reidratare la lente a contatto, perché la lente a contatto che si disidrata si stringe e quindi lascia arrivare meno ossigeno al nostro occhio. Se noi la teniamo bagnata, funziona meglio. Funzione corretta. Professor Rolando, grazie per essere stato con noi, grazie a voi che siete intervenuti. Come sempre potete raggiungerci via mail, scaricare la puntata e soprattutto tornare domani insieme a me alle 11. Buona giornata.